so già, siete sintonizzati qua. State però buoni perché forse vi do il tempo che fa. Sapete che almeno tre tutti dovrete ridere. Sarete più belli così, ridete, state in ordine. Radio Commina, Radio Ceretta, Radio Abbozzante, Radio Gel, Radio Civetta. Radianti! Abbondanti.